con il critico e regista Mario Sesti per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare qualche considerazione sul futuro del cinema. Mario, ben trovato. Grazie Federico, è stato un piacere partecipare a questo referendum che ormai è diventato un must, un evergreen, diciamo, della cultura cinematografica e della comunicazione in Italia. Siamo diventati un campione statistico assolutamente autorevole. Allora, che ne dici di quest'annata? Io quest'anno mi sono divertito forse più delle ultime stagioni. Se metto insieme anche qui sul mio taccuino il film di Scorsese, Killing on the Flower Moon, che secondo me è il miglior scozzese da molti anni a questa parte, sicuramente il miglior film di De Niro da molti anni a questa parte, e credo anche che sia molto interessante il film di Scorsese perché, come mi è capitato di dire anche a Hollywood Party, è anche il segno di come per certi versi le serie possono avere un'influenza benefica sul cinema, nonostante quello che viene detto, no? Perché è quasi una miniserie, Killing of the Flower Moon, sia per il tipo di intreccio sia per la durata. Poi c'è stato quest'anno quello che secondo me è il miglior film di Kaurismäki di sempre, Foglie al vento, è un melodramma di ispirazione quasi marxista, quindi una cosa che non si fa più da nessuna parte, con degli interpreti splendidi. È uno stile di Kaurismäki che ormai ha raggiunto un diapason tra semplicità, essenzialità e personalità, con questi personaggi che guardano con i campi e controcampi a 90 gradi, come Ozu, che è il suo regista preferito. Poi c'è Zona di interesse, che è un film su un argomento su cui esiste una letteratura cinematografica sterminata, che è quella dell'Olocausto, in cui per la prima volta è un film in cui fa sentire solo i rumori della morte, solo i rumori e l'odore dello sterminio, quindi un'idea stilistica straordinaria. Poi metto anche un film che si chiama Passage di Ira Sachs, un triangolo pazzesco tra due omosessuali e una donna, la bellissima Adele Exarch Populos, che tra un film in cui la semplicità e la sobrietà della messa in scena sono in aperto conflitto con l'intensità del sesso, della passione, dei conflitti, che fa strage anche di tutte le nostre buone intenzioni su il politicamente corretto, l'accettazione della diversità sessuale, nel senso che poi i nostri sentimenti, i nostri desideri fanno a pezzi tutto. E poi ci metto in coppia due film italiani che mi hanno molto preso. Uno è Disco Boy, che ha avuto una segnalazione a Berlino, è un film veramente che sembra fatto su un altro pianeta, con ripresa in Rossi, una storia assurda, è un po' strana, che racconta la tragedia dell'immigrazione di chi da un paese deve scappare da un altro in una maniera totalmente diversa. E poi Felicità di Michela Ramazzotti, che secondo me è l'esordio più bello di quest'anno. Lei ha parlato di Ken Loach, la prima volta che l'ho letto mi sembrava esagerato, sono uscito dal film con la convinzione invece che non fosse affatto esagerato. Un film in cui la difficoltà di sopravvivere, le difficoltà materiali, insomma, la verità su tante aree di questo paese che vivono in quelle condizioni, ed è anche un film sulla famiglia molto duro, molto doloroso, molto vero, mi ha molto preso. Questi sono il mio pacchetto di mischia di 5 film. In generale, trovo che, come ha scritto Richard Brody sul New Yorker, Richard Brody è un critico americano che stimo moltissimo, se prende film evento di quest'anno, cioè Barbie e Oppenheimer, Oppenheimer è una caricatura di un film alla Kubrick, nel senso che secondo me Nolan sta a Kubrick come, non so, Edoardo Leo sta a Monicelli. E dalla parte Barbie, che è una compilation di piccole sequenze che hanno un loro significato autonomo, è una maniera in cui la narrazione dei reel, delle storie dei social sta contaminando il cinema, ma anche la maniera in cui il cinema ha dovuto rispondere a questa sfida, un po' metabolizzando. E da questo punto di vista credo che finalmente ci sono dei segni di vitalità anche nella cinematografia americana, con una mostra tipica del cinema d'autore, quindi novità di linguaggio, di rispondere, un'alternativa al mainstream dei supereroi, di cui francamente non se ne può più. Auguri e a presto! A presto, e poi sarò curioso di vedere naturalmente gli esiti finali di questo referendum. Ok. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao.